Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Elezioni in Gran Bretagna, vincono i Tories ma perdono 12 seggi, più 31 per i laburisti, si azzera lo UKIP, la May pronta a chiedere l'incarico alla regina. Se il governo è fermo, meglio votare, dicono i giovani imprenditori di Confindustria, dialogo anche con le forze popolari, al convegno di Rapallo ci sarà anche Casaleggio. Domenica è il primo turno delle amministrative, 9 milioni alle urne, si ferma anche il dibattito sulla legge elettorale, decisioni rimandate al dopo voto. Mario Orfeo, direttore del TG1, sarà la guida della RAI, 5 Stelle all'attacco, gettano benzina sul fuoco, non è al di sopra delle parti. Via libera al decreto per il taglio delle partecipate, dal governo attesa l'approvazione definitiva del reddito di inclusione per 1.800.000 persone. Festa tutta la notte a Benevento per il passaggio in Serie A della squadra, seconda promozione in 2 anni e per la prima volta nella massima serie. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, potete anche vederci in diretta, nella nostra diretta video, sulla nostra pagina Facebook, la pagina Facebook di Effetto Giorno e sulla pagina Facebook di Radio 24. È venerdì e quindi, come ormai ogni venerdì e ogni lunedì, andremo di nuovo sulle tracce di Igor il Russo, Norbert Fehr, ormai scomparso da oltre 2 mesi e le cui ricerche proseguono. In apertura però, naturalmente, parliamo delle elezioni inglesi. Come i sondaggi negli ultimi giorni avevano previsto, Theresa May non ottiene la maggioranza forte che avrebbe voluto e non arriva alla maggioranza assoluta dei seggi. Forte crescita dei laburisti, fanno bene anche i liberal democratici, azzerato lo UKIP, si apre una fase complessa con la stessa May che proverà a formare un governo e con l'Europa che già preme per il negoziato sulla Brexit. Iniziamo dai numeri di queste elezioni. Manca ancora il risultato di un collegio all'appello, ma i giochi sono ormai chiari. I conservatori vincono con il 42% dei consensi, ma non hanno la maggioranza assoluta in Parlamento, dove entrano 318 loro deputati, contro i 331 della legislatura interrotta da queste elezioni anticipate. I laburisti risaliti al 40% ottengono invece 261 seggi, 29 in più di prima. Gli indipendentisti scozzesi subiscono la pesante perdita di 21 deputati, fermandosi a 35. I liberal democratici salgono a 14 seggi e gli unionisti nordirlandesi del DUP a 10. Annientato invece l'UKIP, il partito della Brexit che non entra in Parlamento. Il leader Nuttall si è già dimesso, ma non è lui l'unica vittima di questa tornata elettorale. 9 sottosegretari del governo May infatti non sono riusciti ad essere rieletti, da quello del tesoro allo sviluppo internazionale, la sanità e così via fino all'edilizia. Tra chi entra invece per la prima volta ci saranno un Sikh che indossa il turbante e una sua correligionaria donna. Una delle tante ad essere state elette. In totale saranno il 32% dei deputati, per la maggior parte laburiste. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ieri sera Jeremy Corbyn, leader laburista, ha chiesto le dimissioni di May. La stessa May sta per presentarsi a Buckingham Palace. Ci colleghiamo dunque con Londra e con Giorgia Scaturro. Giorgia, buongiorno. Buongiorno Simone. Ebbene, come state capendo, queste elezioni politiche in Gran Bretagna sono uno dei boomerang politici più disastrosi della storia del Partito Conservatore, almeno dalle dimissioni di Cameron un anno fa dopo il referendum sulla Brexit. Theresa May, la leader che doveva essere forte e stabile e che ha perso la maggioranza, non piega la testa di fronte al crollo dei consensi e non ha intenzione di farsi da parte dopo la richiesta ufficiale di dimissioni arrivate dal vero fenomeno di questa tornata elettorale, Jeremy Corbyn, legittimato definitivamente come leader carismatico dei laburisti dopo una rimonta memorabile. La May si sta ora arrampicando sui numeri usciti dalle urne per arrivare ai 322 seggi di maggioranza necessari a governare il paese. Alle 13:30 italiane si presenterà a Buckingham Palace per richiedere ufficialmente alla regina Elisabetta il permesso di formare un governo di coalizione insieme al DUP, il partito unionista democratico che, come ricordava Laura, ha vinto 10 seggi. Il partito dell'Irlanda del Nord darà una manforte numerica alla May, ma sicuramente non la sicurezza per ancorarla al 10 di Downing Street. Il primo ministro potrebbe durare poco sulla poltrona a 11 giorni dall'inizio delle negoziazioni per la Brexit. Intanto lo scenario resta aperto, sentiamo. Siamo pronti a servire il paese, ha detto Corbyn trionfante, buttando al centro dell'arena politica il proprio manifesto per una possibile, anche se improbabile, coalizione alternativa con gli altri partiti di minoranza. A te, Simone. Grazie dunque a Giorgia Scaturro per questo aggiornamento. Una piccola precisazione: vi ho detto che siamo anche in diretta, come lo siamo tutti i giorni, in video sulla pagina Facebook di Effetto Giorno e su quella di Radio 24. Mi pare che al momento ci sia qualche problema da questo punto di vista, vedremo se riusciremo a ripristinare. Veniamo all'Italia, iniziando dall'Assemblea dei Giovani Imprenditori di Confindustria, la nostra inviata. La politica è in crisi e lo sono anche i cittadini, perché il primo problema dell'Italia è proprio che ha paura. Il problema dell'Italia è che l'Italia ha paura e la paura si cura con il lavoro, così alleandosi anche con la New Economy affrontano i giovani industriali, per voce del loro neopresidente Alessio Rossi, la mancanza di crescita e la crisi anche della politica. Se è in crisi, dicono, tuttavia decide molto meno di quello che crede. Perché più delle leggi, più dei programmi elettorali, più dei governi e dei parlamenti, chi decide giorno dopo giorno dove andrà il mondo è l'economia reale. Siamo a un punto precario di equilibrio, indicato dal simbolo del convegno, la sedia sospesa, che può cadere avanti, verso il futuro o indietro. I giovani imprenditori guardano ai prossimi appuntamenti sulla legge di bilancio, che deve disinnescare le clausole di salvaguardia e rafforzare le riforme, e sulla legge elettorale. Le elezioni anticipate, dicono, non servono a nessuno, ma se il governo deve passare il tempo a cercare la maggioranza in Parlamento invece che fare le riforme, allora meglio votare. Non c'è invece l'intesa sulla legge elettorale? Allora correggete a maggioranza il consultellum e andiamo a scadenza naturale della legislatura. E i giovani industriali aprono al dialogo anche con le forze popolari. Come ceto dirigente ad ogni livello dobbiamo ricercare un dialogo con chi ha un grande sostegno popolare. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Rapallo. Questa è la cronaca da Rapallo. All'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, visto che si parlava di politiche governative, le partecipate, il reddito di inclusione. Andrea Viali, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Ancora in corso a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei Ministri, nella quale però sappiamo che stamattina è arrivato il via libera definitivo al nuovo decreto sul taglio delle partecipate. Si tratta di uno dei decreti attuativi della riforma Madia della pubblica amministrazione, che è stato rivisto dopo una sentenza della Consulta. Tra le partecipate destinate ad essere tagliate ci sono, tra le altre, quelle che hanno fatturati inferiori ai 500 milioni di euro e quelle che hanno più amministratori che dipendenti. Nel Consiglio dei Ministri, lo dicevi, c'è stato anche un primo esame del decreto legislativo che introduce invece il reddito di inclusione, la nuova misura nazionale di contrasto alla povertà, che riguarderà una platea di circa 1.800.000 persone, cioè 400.000 famiglie. Dal 2018 il REI sostituirà il sostegno all'inclusione attiva e l'assegno di disoccupazione. Per il prossimo anno l'importo sarà di circa 450 euro al mese e sarà versato per un anno e mezzo, salvo possibilità di rinnovo. Per ora è tutto, Simone. Grazie dunque al nostro Andrea Viali per questo aggiornamento sulle politiche governative. Le vicende politiche che passano naturalmente dalla legge elettorale, dalle amministrative che sono ad un passo, ma passano anche dalla RAI. Le ultime notizie riguardano proprio questo, la nomina di Mario Orfeo e la rabbia dei 5 Stelle. Marta Cagnola, buongiorno. Sì, buongiorno, stavamo litigando con il microfono. Buongiorno, si va verso la designazione del direttore del TG1 Mario Orfeo, proprio alla direzione generale della RAI. Dopo una prima riunione del CDA è in corso l'assemblea dei soci, che sono per il 99,56% di proprietà del Tesoro e il residuo 0,44% della RAI è detenuto dalla SIAE. Assemblea dei soci che sarà seguita da una nuova riunione del CDA che dovrebbe procedere alla nomina. La procedura prevede infatti che il direttore generale venga nominato dal Consiglio di amministrazione d'intesa con l'azionista. Orfeo, nuovo direttore generale della RAI, ha già twittato Maurizio Gasparri, mentre il consigliere Carlo Freccero, si apprende dalle agenzie, si è espresso contro la nomina di Orfeo, proponendosi lui stesso come direttore generale e chiedendo un'audizione pubblica in vigilanza per verificare chi è più competente. E poi ha parlato Roberto Fico, capogruppo Movimento 5 Stelle alla Camera e presidente della Commissione Vigilanza RAI. Ho letto in questo momento un'agenzia circa la proposta del nuovo DG, che è quella di Mario Orfeo, ha detto... mi sembra voler mettere benzina sul fuoco perché avevamo chiesto tutti un uomo sopra le parti e io ha detto non ritengo Orfeo un uomo sopra le parti. E grazie dunque a Marta Cagnola, come si diceva, come diceva Roberto Fico, benzina sul fuoco su un dibattito che si compone anche evidentemente della legge elettorale. Su questo fronte come siamo, Elisabetta Fiorito? Buongiorno. Buongiorno Simone, sono pronta ad una nuova intesa ma non sono ottimista, così Matteo Renzi commenta l'affossamento della legge elettorale ieri nell'aula di Montecitorio. Per il segretario PD c'è stato un fallimento impressionante della proposta condivisa dai principali partiti, aver accettato l'accordo sul tedesco che non era la storia del PD è stato giusto, ma i 5 Stelle, attacca Renzi, sono inaffidabili per definizione. Risponde allora Roberto Fico, per il quale ha vinto la linea dell'aula parlamentare che è sovrana, e questo, dice l'esponente dei 5 Stelle, Renzi lo dovrebbe sapere. Se c'è un emendamento da presentare, l'aula decide se bocciarlo o meno. Silvio Berlusconi spera che prevalga il senso di responsabilità. Un incidente parlamentare, per quanto deplorevole, su un emendamento che peraltro, dice Forza Italia, non condivide, non può giustificare il fallimento. Ma c'è imbarazzo proprio in Forza Italia per l'emendamento di Micaela Biancofiore, deputata azzurra, che ricordiamo prevedeva l'applicazione del Tetescellum anche all'Alto Adige e che di fatto ha affossato la legge elettorale. Tutto rimandato comunque a dopo l'amministrativa, Simone. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito. Prima di passare a parlare del Benevento Calcio, abbiamo un aggiornamento per quanto riguarda la RAI, perché è arrivata adesso la nomina attesa, Marta Cagnola, no? Eh sì, il CDA della RAI lo ha annunciato proprio in questi istanti. L'agenzia ANSA ha nominato Mario Orfeo alla direzione generale dopo l'intesa in assemblea con gli azionisti nell'assemblea totale totalitaria. 7 i voti favorevoli, compreso quello della presidente Maggioni, contrario solo Carlo Freccero. E grazie Marta anche per questo aggiornamento. Dunque, la favola del Benevento Calcio. Ci sono voluti 88 anni per arrivare in Serie A, 2 promozioni di fila. Clemente Mastella, sindaco di Benevento, buongiorno. Buongiorno a voi. Sì, beh, è vero, si tratta davvero di una favola incredibile, insomma, di un sogno mai sognato, ma che nessuno di noi poteva neppure immaginare, pensare, ipotecare. Invece è stata una cosa straordinaria, quella che abbiamo vissuto ieri sera, che ancora stiamo vivendo, e siamo immersi in una specie di bolla gioiosa. Ha festeggiato tutta la notte anche lei, o no? Sì, abbiamo festeggiato tutti la notte, un popolo intero si è ritrovato. E mi ha dato un po' l'impressione di quando il Napoli vinse il primo scudetto, ci fu l'interpretazione, la identità dell'intera città, del popolo napoletano, della Campania attorno al Napoli. La stessa cosa è capitata oggi per quanto riguarda la mia città di Benevento, ma non soltanto la città di Benevento, l'intero Sannio, di una realtà piccola, ma insomma che oggi credo sia stata riconosciuta in Italia, e spero il cui valore artistico e la cui enogastronomia insomma saranno in tanti poi a visitare successivamente, perché Benevento è una città straordinaria, bellezze incredibili sul piano di superfettazioni di natura monumentale che datano al preromano, al romano, al gotico, all'arte moderna con Palladino che di Benevento, insomma, ecco, tutte quante queste cose assieme con l'enogastronomia possono comporre un mosaico che ci porterà a crescere il calcio. Un'occasione anche di marketing territoriale pazzesco, e lei tra l'altro sta già facendo adesso in onda, ma giustamente, Mastella, insomma, come perfettamente normale. Mi invito tutti a venire. Qualcuno ospite mio a casa mia, insomma, quello che posso, però gli altri giusto che andiate nei locali in modo tale che ci sia incremento di piccolo PIL locale. Certo, senta Mastella, e poi ci sarà il derby, Benevento-Napoli. Si è verificato già una volta, devo dire, però a ribasso, cioè quando il Napoli ricominciava l'itinerario del Calvario in cui era precipitato, doveva essere Laurentiis, e invece il Benevento stazionava costantemente là, infatti non si era mai allontanato di là, nel senso che era rimasto sempre la Serie C, la vecchia Serie C, oggi Lega Pro. Invece in un anno, perché voi dite 2 anni, in realtà è un anno dal punto di vista temporale, che l'anno scorso ero candidato a sindaco e mi ricordo che festeggiamo la Pia, anzi già era avvenuto, e oggi sono sindaco da meno di un anno, proprio in questi giorni, il 20 giugno, c'è il mio sindacato che fa un anno, è un anno dal punto di vista dello spazio-tempo reale. Sì, poi sono chiaramente due stagioni calcistiche. Marcella, oggi i colleghi Oscar Giannino e Alessandro Milan in trasmissione da noi scherzavano dicendo: beh, immaginati la tribuna d'onore con Mastella accanto a De Magistris nel derby, non è malaccio. Non credo che lui verrà, insomma, saremo magari in tribune diverse, non è che non saremo ospitali con tutti, evidentemente anche col sindaco di Napoli, dove venisse, perché rappresenta l'istituzione, però non saremo vicini, evidente, per ragioni anche scaramanti, non sarei vicino a lui. La ringrazio, grazie. Vuol dire che le porta sfortuna De Magistris, rischia di portare sfortuna. Insomma, credo proprio di sì. Lui la crea la sfortuna, nei miei casi la tenta di crearla. Ok, grazie. Mastella, buon festeggiamento, sindaco di Benevento. Il traffico, ci risentiamo tra un attimo. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Oggi qualche problema sulla diretta video Facebook, siamo in diretta anche su YouTube, a quanto mi risulta e a quanto ho visto adesso. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato delle elezioni in Gran Bretagna, del convegno dei giovani imprenditori a Rapallo, della politica con la legge elettorale, delle decisioni del governo di questa mattina e della RAI con Mario Orfeo, è stato indicato alla direzione generale dell'azienda. Ci siamo occupati anche del Benevento Calcio, anticipando un po' il nostro giro per l'Italia. Abbia pazienza, lo dico all'ascoltatore che dice: invece di intervistare l'allenatore chiamate Mastella, un po' lamentandosi, ma mi scusi, tra 45 minuti va in onda una trasmissione che si occupa quasi esclusivamente di calcio e mi metto a rubare il lavoro ai colleghi. Sentiamo il sindaco della città. Se non fosse stato Mastella sarebbe andato bene, ma visto che è Mastella vi lamentate. Tra l'altro vi segnalo che pochi istanti fa Mastella vi ha invitati tutti a casa sua per le partite del Benevento e quindi dovreste solamente ringraziare. Arriveremo anche, lo dico agli ascoltatori che ci scrivono, ai prossimi eventi, a partire, ci andremo più tardi nel nostro giro per l'Italia, dal concerto di domani dei Guns N' Roses a Imola e come si stanno sviluppando le misure di sicurezza. Dico anche all'ascoltatore che non ci occuperemo dell'evento che si svolgerà il 20 giugno a Reggiolo, un altro ascoltatore che ci scrive, Matteo, che è Rutto Sound, gara internazionale di rutti, non pensiamo ci possano essere problemi di sicurezza per quello. Certo è una gara interessante e potenzialmente con delle potenzialità radiofoniche non indifferenti. Daniele Predieri, cronista della Nuova Ferrara, ciao, bentornato. Buongiorno a tutti. Un saluto anche ai teorici del complotto, ai maniaci della cospirazione che dicono che siamo dei manipolatori perché lo chiamiamo Igor il russo e non Igor il serbo, come se ce l'avessimo con Mosca e quindi questo fosse un modo per mettere in cattiva luce la Russia. No, non è questo, è ormai giornalisticamente pubblicamente noto come Igor il russo, diciamo sempre che è serbo e lo sappiamo, si chiama in realtà Norbert Fehr e sono due mesi che non si trova. Vi abbiamo raccontato lunedì con Daniele Predieri che è in atto una sostanziale, anche se non troppo pubblicizzata, smobilitazione delle forze dell'ordine dall'area nella quale Igor viene ricercato. Daniele, come stanno andando le cose da questo punto di vista? Sì, hai detto bene, Spezia, sul fatto che la smobilitazione c'è, ovviamente nessuno la conferma, ovviamente notizie ufficiose ce lo danno per certo, ma si vede anche a visto d'occhio. Ovviamente c'è un impegno dei carabinieri, diciamo, della territoriale, cioè sono quelli delle compagnie provinciali che continuano i controlli di routine, e sul posto ci sono ancora poche decine, a dire il vero, di questi dei reparti speciali, pochi dei GIS che sono quasi, diciamo, stati del tutto smobilitati, e ci rimangono Cacciatori e Tuscagna. Questo perché? Perché ovviamente le indagini adesso sono molto molto concentrate sul fattore dell'intelligence. Ovviamente si stanno seguendo diverse piste e queste piste si spera portino a buon frutto. Però ovviamente solo in questo caso, nel momento in cui dovesse esserci una segnalazione importante, scatterebbero le forze speciali per catturarlo. Ecco, la conferma ufficiale è che lo si cerca ancora lì, perché non più tardi di ieri pomeriggio era in corso a Molinella, alla caserma di Molinella, l'ennesima riunione tecnico operativa di tutti gli ufficiali investigativi coinvolti. Quindi sono riuniti ancora là e sostengono che possa essere ancora nell'area, perché, come dire, anche dalle idee che abbiamo sentito e da quello che ci hai raccontato lunedì scorso, Daniele, in realtà sembrava proprio che stessero pensando finalmente a cercarlo da altre parti. Qua molti ascoltatori continuano a scriverci e ce lo dicono, e tutti noi lo abbiamo pensato, no? Questo è già bello che è fuggito, assolutamente, no? però il problema è anche molto serio, che nel caso, è un ragionamento che si può fare anche in modo molto molto deduttivo, nel caso si dicesse ok, non lo cerchiamo più in questa zona, smobilitiamo tutto, e nel caso in cui lui uscisse fuori e facesse qualcosa di molto molto antipatico, per non dire altro, anche soltanto scheggiare l'unghia di una persona, il problema si porrebbe in modo importante. Cioè, ovviamente, come abbiamo sempre detto fin dai primi giorni, questa è diventata una vera questione di Stato. Certo. I carabinieri continuano a dire lo prenderemo, non si sa bene come, quando né dove. Però diciamo, quello che filtra dall'assoluto riservo di questi ultimi giorni è che loro, gli inquirenti genericamente, sostengono che lo si cerca lì perché hanno dei riscontri importanti. Ovviamente questo sono fonti confidenziali che noi abbiamo e che ci riferiscono questo, non riferiscono che tipo di riscontri, però vi do soltanto un segnale, diciamo, sul disorientamento delle indagini. Ieri è stata ascoltata, dopo quasi 2 mesi e mezzo, la vedova del barista di Davide Fabbri, soltanto ieri. Dopo 2 mesi? Dopo 2 mesi e mezzo, sì, infatti, assolutamente. È la prima volta che è stata sentita? La prima volta che è stata sentita ufficialmente. Questo lo ce l'hanno detto i colleghi di Bologna e anche riferito dall'ANSA, perché probabilmente è un interrogatorio anche, diciamo così, formale, per precisare anche il racconto della sera di quel delitto. Tanto più che questo viene riferito ovviamente dai legali della famiglia. Hanno detto anche che hanno presentato un esposto contro la RAI per aver diffuso il famoso video della rapina di Igor Norbert, il serbo e non il russo, sì, dentro il bar, che fu trasmesso in esclusiva dal TG1. È un esposto contro la diffusione per violazione del segreto di indagine e della privacy. Questo è il segnale. Che ti devo dire, Daniele? Io immagino che torneremo a risentirci, perché qua non se ne esce, non si riesce a trovare. Qualche ascoltatore dice, ci scrive Andrea da Modena: siete sicuri di non fare un servizio al ricercato diramando queste notizie così dettagliate sulle forze in campo? Non sono dettagliatissime, però le forze in campo sono là, sono in quell'area, ormai lo raccontiamo da giorni, le informazioni le può trovare dove vuole, volendo anche su internet, e non sappiamo nemmeno se le ricerche proseguano là e proseguano anche in altri luoghi che evidentemente non ci vengono detti, e magari le informazioni che fanno filtrare le forze dell'ordine sono fatte apposta in qualche modo per depistare noi stessi e depistare lui. Questo non lo possiamo sapere, però le ricerche in quell'area, come ci ha raccontato Daniele Predieri, proseguono. Grazie Daniele Predieri, immagino ci risentiremo lunedì. Pinuccia Montanari, assessore alla sostenibilità ambientale del Comune di Roma, buongiorno e bentornata ai nostri microfoni, Montanari. Buongiorno, buongiorno. Allora, l'abbiamo richiamata perché c'è sempre il maledetto tema dei rifiuti a Roma. Leggiamo dall'edizione locale del quotidiano La Repubblica che da oggi 500 tonnellate al giorno non avranno sostanzialmente destinazione, perché l'impianto, uno degli impianti funziona solamente a metà, sono indisponibili gli altri centri, rischia di crearsi un nuovo problema. È così, Montanari? No, il dato non è corretto, nel senso che c'è stata una leggera riduzione, ma in realtà Collari oggi ha preso 1.000 tonnellate e poi lunedì riprenderà con le 1.250 tonnellate e ci sarà una leggera flessione a 800, poi vedremo domani sera, quindi sono, diciamo, un po' di allarmismi che vengono lanciati, però la situazione è assolutamente sotto controllo. La situazione dei rifiuti sotto controllo, dice lei. Sotto controllo, certamente, in un sistema fragile, come abbiamo sempre sostenuto, un sistema fragile che non abbiamo ovviamente creato noi, ma noi stiamo invece proprio diciamo realizzando in tempi anche rapidissimi gli interventi necessari per poter diciamo eliminare questa fragilità del sistema. Tempi rapidi nel senso che, come lei sa, insomma, noi stiamo lavorando non solo sulla riduzione, e questo ok, ma stiamo lavorando proprio per le prime 4 isole ecologiche nuove, per le quali abbiamo già effettuato appunto la consegna dell'area ad AMA, quindi AMA inizierà a realizzarle. Stiamo lavorando per realizzare in ogni municipio i CRIC, cioè i centri di riciclo e di riciclo creativo, che anche quelli assorbono comunque migliaia di tonnellate all'anno, e sì, quindi sono tutte tonnellate di rifiuti che vengono sottratti. E poi stiamo realizzando invece l'impiantistica e io confido a breve proprio di fare una grande appunto conferenza stampa in cui diremo appunto i siti e diremo la tempistica anche della realizzazione degli impianti. Montanari, sono 3 impianti che voi dovete realizzare. Sì, esatto. E lei ha detto che i siti non li volete dire adesso, perché? No, non è che non li vogliamo dire, stiamo facendo lo studio di fattibilità per capire che non ci siano nelle aree individuate in collaborazione con i municipi, le aree sono state individuate in stretta collaborazione con i municipi, stiamo facendo diciamo lo studio per vedere che non ci siano diciamo elementi che possano diciamo stare, ecco, alla quando abbiamo in mano, sì, tutto in modo preciso che non si possa proprio tornare indietro, allora noi li comunichiamo. Tra quanti, Montanari, tra quanti siti guardi, state selezionando? Sono stati proposti circa 7-8 siti e abbiamo proprio una mappa di tutti i siti per tutte le tipologie di impiantistica che stiamo proponendo. Su questi 7-8 siti diciamo che 3 sono quelli che sembrano appunto assolutamente più adatti, anzi stamattina posso anche dire che c'è stato anche il sopralluogo in uno di questi e che sembra che il sito vada veramente molto bene. E allora si può dire quindi, dov'è? No, perché no, finché non abbiamo detto le carte. No, no, perché sennò anche, Montanari, perché sennò, sennò la popolazione locale si solleva. No, perché noi individuiamo siti contrariamente a quello che fu fatto in passato, e qui lo voglio dire con molta chiarezza. In passato, cioè, il salario che noi chiuderemo, e proprio perché non vogliamo che le persone siano sottoposte a odori, non vogliamo che le persone possano avere disagi, noi lo chiuderemo, purtroppo scelto in un sito in cui è troppo vicino alle case. Lei dice a differenza del passato, siamo dalla parte dei cittadini, e questo lo voglio dire con chiarezza, perché veramente anche quello che è stato detto a me, no, l'altro giorno, in realtà, cioè, è giusto. No, io non so cosa le è stato detto, no, io non so cosa le è stato detto, devo dire, e poco mi interessa quello che le è stato detto. Qua c'è una domanda precisa, il rischio ovviamente di trovarsi di fronte a una protesta popolare, come spesso accade quando si va a fare un impianto per i rifiuti. No, per questo con molta attenzione dei percorsi, diciamo che saranno anche condivisi, quindi che avranno anche un tempo per le osservazioni da parte dei cittadini, però li stiamo individuando, stavo dicendo, in aree lontano, e mi hanno confermato anche io stamattina non ero al sopralluogo, ma c'erano i tecnici, e io l'avevo già lontano visto il sito, lontano dalle abitazioni, assolutamente lontano dalle abitazioni. Che distanza? Che misura? 3 chilometri, 4 chilometri, 5? Abbastanza lontano. Vabbè. No, parecchio lontano. Ci dà dei tempi, sì, Montanari, per chiudere, ci dà dei tempi, per gentilezza? Sì, guardi, io confido che per la fine, cioè, datemi ancora un mesetto e mezzo. Per poter iniziare a fare la comunicazione. Quindi proprio, vuol dire che andiamo a settembre sostanzialmente? No, io credo che prima dell'estate proveremo a iniziare appunto. Quindi, a fare il percorso. Fine luglio, dico, diciamo fine luglio. A volte fine non dipende luglio proprio da me, ma dipende appunto dall'esame proprio a capito tecnico, perché come dico, noi anche sulle proposte effettuate li abbiamo già diciamo abbastanza individuati. Fine luglio più o meno, non mi piace fare promesse da marinaio, quindi vabbè, insomma, diciamo tendenzialmente fine luglio e poi si vede. Grazie. Vediamo di fare il possibile. Devo chiudere. Grazie Pinuccia Montanari per aver accettato il nostro invito, assessore alla sostenibilità ambientale del Comune di Roma. Ci ritroviamo subito dopo. Ancora il tema dei grandi eventi, come a grande richiesta dei nostri ascoltatori parleremo col sindaco di Imola per capire come si stanno organizzando, perché domani c'è un mega concerto, 90.000, 100.000 persone attese per i Guns N' Roses. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi. I nostri titoli: le elezioni in Gran Bretagna, vincono i Tories ma perdono 12 seggi, più 31 per i laburisti, si azzera lo UKIP, la May pronta a chiedere l'incarico alla regina, dovrebbe andare a Buckingham Palace tra poco. Se il governo è fermo, meglio votare, dicono i giovani imprenditori di Confindustria, che parlano di dialogo anche con le forze popolari. Al convegno di Rapallo, lo ricordiamo, sarà presente Davide Casaleggio. Domenica il primo turno delle amministrative, 9 milioni alle urne, si ferma anche il dibattito sulla legge elettorale, decisioni rimandate al dopo voto. Mario Orfeo, direttore del TG1, sarà alla guida della RAI, 5 Stelle all'attacco, si getta benzina sul fuoco perché non è al di sopra delle parti la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo. Torniamo a parlare di eventi estivi, di sicurezza per gli eventi estivi, per i grandi concerti. Mi si ricorda tra l'altro via SMS l'ascoltatore prima ci segnalava l'evento di Reggiolo, Rutto Sound, che è questa gara di rutti, ci segnala che in realtà è un evento di beneficenza, ma ne siamo lietissimi, ho già detto, sono grandi potenzialità radiofoniche, non credo in questa trasmissione. Dunque, ve l'avevo promesso ieri, che saremmo andati anche a parlare di questo concerto, saremmo andati a Imola. Quanti ricordi questo pezzo ai Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. A Imola domani suonano, sono attese 90.000 persone. Certo, non sarà l'evento più grande dell'estate, è anche un'occasione per noi parlare di questi argomenti, parlare di sicurezza, per parlare di quest'estate che si avvicina, di questi grandi eventi musicali. Il più grande evento sarà sicuramente Vasco Rossi, 220.000 persone attese, andremo a parlare anche di quello. Intanto siamo in linea col sindaco di Imola, Daniele Manca, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, come vi state organizzando dal punto di vista della sicurezza innanzitutto? In diversi comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica abbiamo ricercato il massimo di collaborazione, è una piattaforma Imola abituata a grandi eventi. 2015 col concerto unica data in Italia degli AC/DC, poi dal 1998 fino al 2006 con l'Heineken Jenny Festival, dunque una piattaforma abituata ai 100.000. Rodata, diciamo così. Rodata, insomma, e no? Abituata. Poi è evidente che in questo periodo particolare abbiamo cercato, insieme a tutto il sistema dell'ordine pubblico, che ringrazio, con la guida della prefettura attraverso diversi comitati, di integrare al meglio tutti gli interventi necessari, aumentando le aree di filtro, le aree di verifica, le aree di controllo, ma soprattutto anche contrastando l'illegalità che in molti casi occupa questi concerti, sia di venditori abusivi di bevande che di gadget, quindi cercando di costruire il massimo di legalità per poi chiedere il massimo di disponibilità a tutti gli spettatori, perché è molto importante che chi viene al concerto sia disponibile e paziente nel sottoporsi a tutti i controlli necessari per la sicurezza di tutti. Sì, sarà una giornata lunga quella di domani, immagino, per molti spettatori del concerto, proprio perché i controlli saranno presumibilmente più intensi, sindaco, no? Sì, siccome un concerto ci dovrebbe essere l'abitudine a raggiungerlo nei tempi congrui, in largo anticipo. Ecco, se tutto questo avviene nella più ampia collaborazione e disponibilità, pensiamo di aver messo in campo tutte le risorse necessarie affinché tutto si svolga nel migliore dei modi. Ma come sappiamo bene tutti, la sicurezza di tutti dipende anche dai comportamenti individuali di ciascuno e dunque dobbiamo certo. chiedere pazienza, dobbiamo chiedere civismo, rispetto delle regole, educazione. Insomma, allora, è una questione grande ed importante che dobbiamo affrontare al massimo della collaborazione tra il sistema della sicurezza e tutti coloro che verranno al concerto. Ovviamente. Sì, come abbiamo detto anche nei giorni scorsi, c'è una parte che compete specificatamente alle forze dell'ordine, alla prefettura, alla questura, ci saranno 400 poliziotti, ci saranno anche 1200 addetti alla sicurezza per effettuare tutti i controlli, e c'è una parte che più invece che compete all'amministrazione comunale o insomma all'amministrazione politica genericamente intesa. In termini di ordinanze, che cosa avete fatto? Ma intanto tutto il divieto alla somministrazione di alcolici in vetro, in modo tale che non si producano problemi all'interno delle aree, comunque tutti verranno controllati e sottoposti a verifiche. Poi abbiamo cercato di costruire delle ordinanze proprio per sradicare l'illegalità, perché in molti casi sia cibo che bevande vengono distribuiti in maniera illegale da anche attività illecite che si collocano nelle immediate vicinanze del concerto. Quindi abbiamo cercato di presidiare al meglio tutta la città, abbiamo cercato di favorire l'organizzazione dei treni anche in orario notturno proprio per consentire a migliaia e migliaia di persone di rientrare verso Bologna e verso Rimini. Abbiamo cercato di organizzare la città per tutta la notte in modo tale che ci sia nel divertimento la vera libertà di tutti. Quindi ci siamo impegnati su tutto questo e pensiamo, come è avvenuto in passato, di essere pronti per poter garantire il massimo per tutti. Lei ci sarà al concerto, sindaco? Sì, perché è un evento straordinario. D'altronde, dopo gli AC/DC, i Guns sono un pezzo fondamentale del rock del mondo, dunque insomma non si può perdere un evento di questo tipo, che può rimanere unico nella storia anche della nostra città, insomma. Grazie al sindaco di Imola, Daniele Manca. Ci sembra tra l'altro lo spirito giusto per affrontare le cose, insomma. Buona giornata. Grazie a lei, buon lavoro. E noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade. C'è Mario Platero, ci ritroviamo subito dopo per i saluti.